Giulio, ci sei? Capo Pattuglia chiama Corvo. Giulio, 1, 2, 3, prova. Dimmi se vedi qualche cosa di strano, scrivimelo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedi nulla? Disturbando, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La la la la la la la. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Claudio, tu sei? Parlando, no. Allora, si vede lì da voi, si vede? Già in arrivo? È già tutto grigio qua. Le previsioni hanno dato verso sera, l'Amper. Sì, già lo so, l'avevo visto il meteo. Per cui lo so che stanotte magari sicuramente un bel po' di pioggia ci sarà. E qui da me, dove sono io, già è un po' nuvoloso, però ancora niente di particolare. Ecco, in realtà ho chiesto, però credo in la mente di Massata. E mi detto erano tantissimi matti. Quelli sono solo matti, sono ladri. Io li considero così, perché non è possibile. Caspita, il doppio di quanto l'ho pagato io, 2,50, ma vai, scrivi fuori, fatela arrivare da fuori, non comprare mai niente qua, intanto questi negozianti che ci sono qua a Sassari non se lo meritano, guarda, di vendere per niente, ma fanno schifo, fanno, compra tutto quello che ti occorre, compra tutto da fuori. La tipa mi ha detto, guardi, ho un prezzo buono, mi approfitti perché me ne è rimasto poco. Io le avrei risposto, ascolta, fa una cosa, legatelo al collo a 5 euro al metro, ma vuoi scherzare, a 5 al metro, sì, ma vuoi scherzare, cazzo, quello lì è rubare, non è vendere, quello è rubare alla gente, che disgraziati, cazzo. Guarda, da Media Globe, telefono a Media Globe e te lo fai arrivare da lì il capo, vedrai che paghi di meno. Sì, ma ho dato uno sguardo, è molto meno, ma tu hai che devi aggiungere le studio a quello, e purtroppo c'è. Sì, la spedizione c'è, d'accordo, sono d'accordo con te, però la soddisfazione di non pagarglielo a quel prezzo io non gliel'avrei data, di pagarglielo a quel prezzo non gliel'avrei data, assolutamente. E poi anche se c'è la spedizione, sempre di meno ti viene, perché quando incominci a comprare tu 25 metri, insomma, quanto ti hanno fatto fuori, com'è il prezzo? 76. Come 67? Non ho capito. Ah, per 25 metri. 67 per 25 metri. No, 77. 77, ecco. Allora io avevo pagato, vabbè, ormai sono passati parecchio tempo, dai. Io avevo pagato 62,50, per cui 77, è proprio in un altro negozio. Prova a telefonare a Media Globe, che è il negozio che solitamente è quello più a buon prezzo, vende quello più a buon prezzo di tutti. Stavo guardando adesso, ci hanno, non c'era la Paolo, è buono, è proprio a prezzo. Beh, guarda che puoi ripiegare al limite, puoi ripiegare sull'H155, perché è un ultimo cavo anche quello, è schermato abbastanza bene, è schermato all'85% mi sembra, va bene, l'H1000 è schermato al 100%, questo sì. E intanto non so se vicino a te non ci sono linee telefoniche ad esempio o cavi di antenna TV che passano vicino al tuo cavo, potresti utilizzare anche quello. Ha una velocità di trasmissione di 80-81-081, insomma è un buon cavo. L'H155 è un ottimo cavo ugualmente, per questa frequenza ce n'è più che in abbondanza. Ma sì, al 200, ho capito, sì, e beh, vabbè, ma voglio dire, anche per l'antenna nuova potresti utilizzare anche l'H155, non è un problema. Vuoi vedere tu, tieni presente che la H1000 è rigido, è abbastanza rigido, insomma. Sì, già si può attaccare lo stesso tranquillamente, però l'apparecchio in pratica lo devi tenere fermo in un posto e lasciarlo attaccato così, l'antenna, perché non lo puoi muovere quasi di niente, si può dire, perché è rigido, il filo centrale è rigido, è ottimo cavo, sia ben chiaro, ottimo cavo, schermato al 100%, sezione 10 e 5 di millimetri, per cui va bene, oltre un centimetro, insomma va bene, come cavo è straordinario, non ci sono dubbi, doppia schermatura, ottimo veramente, però vedi tu, non lo so. No, dai, lo prendo una volta, dura vent'anni, non ci penso più. Ah sì, quello sì, non ci sono dubbi, è un altro discorso quello, certo, comunque io avrei interpellato altri negozi, prova in altri negozi, telefono in altri negozi e poi da se magari c'è qualcuno che lo vende con un prezzo più basso. E ricordati di chiedere sempre quello al Belden, originale, che ci sia la marcatura Belden, che è quello originale, sopra c'è stampigliato sul cavo Belden. Sì, sì, lo conosco, un po' una percentuale, che è l'equivalente della Paolo, ma forse forse è il buono, adesso stanno facendo cose per 27, sarebbe italiano, però sono un po' di cambiato. Ma ve la mandiamo questa tabella che mi ha dato Mastro Giulio, che fa una cultura, Claudio, buonasera. H1000, non sbagli, H1000. Ciao Claudio, ciao Claudio. Ciao Giù. No, no, ma se io ti mando una tabella che mi ha mandato Giulio a me dei cavi, ti accorgi che la H1000 equivale su tutti, tranne che sul Cefex. Ma la H1000 è un cavo eccezionale. Eccezionale, se guardi le perdite su 50 metri ti metti a ridere, capito? Io sono Renato, Sergio di Renato, poco QRM, segnali molto ben corposi, qua, ottimo, sono contentissimo dell'H1000, io ho una discesa da 40 metri di H1000 e sono contentissimo, ma proprio perché me l'ha consigliato Giulio, quindi fatti consigliare che lui in cavi e in antenne, a parte il suo lavoro di 60 anni di matronascia, però è abbastanza preparato qua, quindi io sarei andato sulla camilla. Vai Giulia che mi sto facendo la barba, mi stavo ascoltando, poi entro. D'accordo, d'accordo qua. Sì, ma indubbiamente, il problema è che ho sentito che Fusaro glielo vuole vendere a 5 euro al metro o qua. Per me quello è pazzo, sono diventati pazzi tutti in un colpo, però pazzi ladri, perché non è possibile che si possa pagare la camminata a 5 euro al metro, incredibile la città, vabbè, comunque. Non lo so, vedi un po' tu o Claudio, io comunque la soddisfazione, prezzo per prezzo, mi guarda, prezzo per prezzo, compreso il trasporto, non gliela dai la soddisfazione di comprarlo qui a Sassari, devi mettere il legatolo al collo e strangolarti con quel cavo lì. Ma non fare il pazzo, ma lo comprerai a 5 euro al metro, quando io ho preso una matassa da 50 metri, da 50 metri, spedito da Media Globe, spedito a 3,50 euro. Stavo guardando, tutta roba veramente di poco, avrà finito, cosa vuoi ti dica? Prova da altri, ma non a Sassa di 5 euro al metro. Ma così si para. Infatti l'ho trovato a 3,40-30, gli altri trovo. 3,50, io ho una matassa da 50 metri. Capito? E siccome poi ha preso a me, ne ho fatto ordinare altre 50 metri, non ci ha fatto pagare il trasporto. Tu immaginati, me l'ha portato Bartolini. Ok, una matassa da 50 metri a me e una matassa da 50 metri ad un altro amico. Quindi a 3,50 euro, non so se ce l'avevano pronto, se l'hanno ordinato da Media Globe, comunque noi lì l'abbiamo comprato. Se prendi Giulio rientro dopo. Sì, ok, qua. Beh, certo, capita, è pazzesco che uno debba essere così esagerato con i prezzi, no, ma ripeto qua, io anche a costo di pagare gli stessi soldi col trasporto, ma la soddisfazione di comprarglielo qui a Sassari, noi della lì, assolutamente. Anche perché intanto in un paio di giorni ce l'hai a Sassari, non è che deve aspettare tanto tempo. In pochi giorni, due giorni, tre giorni massimo ce l'hai a casa. Quello è scontato. Poi stamattina tutto stesso mi ha detto che in due giorni ti hanno mandato l'antenna, figurati. Sono negozianti quelli ben organizzati che sanno fare il loro lavoro. Ma lì, qui a Sassari, per carità, è meglio non parlarne, guarda. Non si può comprare nemmeno una resistenza, no, non con cose di un certo valore, ma che sono centesimi, ma non gli darei meno la soddisfazione di niente a questa gente qua. Prova a scrivere su Amazon, a vedere cosa ti mandano, perché lì di solito il trasporto è gratis, o Claudio. Sì, ma il prezzo è più alto. Beh, ma bisogna vedere, fare confronto, se il prezzo è più alto, considerando anche la spesa del trasporto, vedi un po'. I mercatini sì, stanno facendo adesso vedere i consulenti per adesso. C'è uno che vende le matasse di Selflex, quella addirittura da 1,5 a 2,50 euro al metro. Non è erba nuova proprietà, comunque c'è sempre roba ottima. Sì, beh certo, indubbiamente sì. Solo che la Camille è quello, io ho scelto la Camille non perché effettivamente mi interessasse proprio quello, però mi è interessato per il semplice fatto che è schermato al 100%, perché tu mi insegni che le sfurie, le armoniche vengono fuori proprio dal cavo, non dall'antenna come magari qualcuno può pensare, bensì dal cavo. E se io faccio un cavo di discesa e lì vicino c'è una linea per dire telefonica oppure un altro capo di antenna TV del vicinato eccetera, potrebbe anche interferire, mentre invece se è schermato al 100% appunto come la Camille, problemi di questo genere almeno lì per quello non te ne dà, è tutto lì o qua, se no io non l'avrei mai scelto nemmeno, un po' perché è troppo rigido e anche poi perché per questa frequenza non mi sarebbe interessata più di tanto. Sì, ma è l'unico, è una scelta giusta, una scelta adesso dove meno costa lo prezzo, ma li ho comprato già vari tutti e li conosco un po', dirai due, come entrare, direi un po' dove costa meno. Però c'è questo, siccome è stato l'unico, capire, tirarlo per il salto, non facevo. Quindi io pensavo di mettere tre tonne dopo, circa 3-4 dischi metri per mixer, poi da quelli che fanno per il coltello. Vale la pena di questo, è tutto molto più rapido. Sì, lo intendi tu il deviatore d'antenna, ad esempio, il deviatore d'antenna e utilizzi gli spezzoni, quello già è vero, però sì, un minimo di perdita ce l'hai, certo che c'è un 0,2, 0,3, niente di più, ma non è così trascendentale la perdita, per cui va bene lo stesso. Sì, perché cavolo, la Camille non deve fare una curva troppo chiusa, assolutamente, deve essere una curva ampia, perché sennò cosa succede? Che il dielettrico si schiaccia, schiacciandosi, allora la calza rimane avvicinata al polo caldo e dunque lì incomincia a cambiare l'impedenza, è diverso, mentre invece perché ogni capo è stato costruito con le caratteristiche appunto anche dell'isolamento, di elettrico, a casa eccetera eccetera, le dimensioni di diametro, di spessore, tutte queste cose qua, per cui deve fare una curva ampia, minimo deve avere una curva, proprio esagerando, quando la più piccola 10 cm, perché se no lì si schiaccia il dielettrico e nel coccheggi sopravviene la differenza di impedenza tra calza e coso e dielettrico, cioè è filo positivo. Sì, ma è anche con gli altri tipo 213 RGO, circa lo stesso, non puoi fare una cosa prima rovinata, vai all'inizio a rimetterci tutto. L'unica era quei, come ti stavo dicendo, le dischiere si attaccano per attore, poi si fa i cavallotti che vanno alle varie radio, e se no è un macello, come fai a collegarti tutti quei cavi rigidi alle radio? Viene fuori un casino. C'è qualcuno qua? Sì, il commutatore d'antenna ti metti e dunque puoi collegare tipo la radio che vuoi, a 2, a 3, a 4 vie, come vuoi tu. Dunque ogni radio poi ha il suo cavo, sempre con la stessa antenna. Quando devi utilizzare non fai altro che commutare il deviatore d'antenna e il commutatore d'antenna e si già è attivo sulle frequenze che scegli. Sì, ma è così. E allora si deve fare gli spezzoni e fatelo con cavo almeno H155, che è come il VG58, suppongo che tu lo conosci, quel cavo lì. Ed è molto flessibile, perché, no, sai perché ti dico quello? Per poter cercare di pareggiare più o meno la velocità di trasmissione del cavo. Mi spiego meglio, e siccome la H1000 ha una velocità di trasmissione di 0,83, l'H155 invece è 0,81, sicché più o meno ci siamo. Non fare lo spezzone ad esempio con uno RG58 che è 0,66, che è troppo distante come lunghezza d'onda, capito? Per cui non andrebbe bene. L'H155 va bene per fare gli spezzoni. Avanti qua. Sento Giulio. Un attimo tu. Da un capo che cambia una sera, infatti può anche a chi chiede la 150, me lo stava dicendo il collega, quindi giusto per fare cavallotti già e poi stavo andando a saldare quelle carte, dove non è uno, ma non è saldare un piede normalmente lei. No, usa gli adattatori, ma chi te lo fa fare a distruggerti la mente per fare la saldatura del spinotto N? No, usa l'adattatore, tanto non perdi niente, cosa? E poi l'adattatore ti consente di utilizzare le due versioni, no? Se per caso dovessi cambiare antenna o cambiare spessore, eccetera, eccetera. Per cui, scusa che c'è stata la chiamata di Antonio. Avanti Antonio. Antonio, rispondi adesso. Ho messo la antenna, come sto arrivando lì agli alunni? Santiago 6, Arturo. Niente di particolare, non è che hai migliorato di segnale. Santiago 6, la radio già è buona, io ti sento bene. Non lo so se ti senti a Porto Torre dell'amico. Adesso, avanti Claudio, l'hai sentito Antonio da Sassari? Sì, un filo di volo, appena, Santiago. Appena per radio lo dico. Appunto, visto, lo sapevo perché considerando il segnale che arriva a me, è chiaro che a Porto Torres se non ci puoi arrivare, che ha appena sentito proprio un filo di voce, ma proprio basso, niente segnale, Antu. Guarda, stamattina stavo parlando con Gianni Lubrefetto, che è lì dove sei tu, a pochi metri da te, e ha una boomerang, una boomerang, ma arriva dappertutto, per cui non capisco, cambia, buttala via quella quell'antenna lì, mettiti almeno una boomerang o Antu, almeno riesci bene, grazie di Dio. Vai Antonio. Perché io ho la boomerang. Ce l'ha la boomerang, Gianni ce l'ha la boomerang, è lì vicino a te, ma arriva se 9.5, 9.7 mi arriva, tu mi stai arrivando se sei o sì, è lì vicino a te, a pochi metri da dove sei tu. Ora, io ho la stessa boomerang che ha lui in questo momento. No, cosa vuoi che ti dica io? Comunque la differenza è notevolissima. Va bene, dai, facciamo girare, vedi tu cosa vuoi fare. Avanti Claudio. Che è andato a travaglio, dai, ci risentiamo. Quella riguarda che ho detto Claudio, che è dopo a 9. Lo dentro, non abbia vuole gliela. Hai sentito Antonio? Antonio? Ha detto che è andato a lavoro, è dovuto scappare. Ciao Giulio, Corix per me. Ciao Marco, non ho sentito io, non ho sentito, arriva basso qua da me, lui continua a insistere con non lo so, comunque, vabbè, già lo sa come deve fare, dunque, quando decide di attrezzarsi bene, ci fa piacere a tutti, dai, perlomeno a me in primo luogo. Ok, avanti Marco, dai, c'è Claudio da Porto Torres, mi sembra un nome tipo Navarro o qualcosa del genere, adesso non lo ricordo bene, poi ce lo dirà lui, vai Marco. Ehi, ciao Claudio, dai, ben risentito, ci eravamo già sentiti una o due volte forse sul 10. Sì, qua Antonio ha cambiato praticamente niente, poco niente mi, cioè era circa 9.25, adesso 9.25, ma le mezze misure non servono secondo me, cioè lui doveva andare di 5 ottavi direttamente, passare dalla Storm alla 5 ottavi, anche una canna da pesca mi, quella che fa Luca va benissimo ed è leggera, le mezze misure alla fine, boh, vabbè, contento lui. Dai, sono in Quadix che sto piano piano già preparando la roba in cucina. Riprendete pure. Vai Claudio di Pro Torres. Ciao Marco. Io stavo dando la come. Ho controllato, No, non la conosco, la Diamond sì, ma quella non la conosco, Claudio. Sì, sì. E vabbè, evidentemente avrai valutato la situazione, non, già, già sei figlio, non è un problema. Se hai scelto quello vuol dire che quella ti ha convinto di più, e va bene così, non c'è problema. Bene, bene Claudio, avanti. Mi ha detto, me portavo poi la cosa, inutile che la metto adesso, però magari è importante. Ah, ok, sì, sì, beh certo, se si tratta di ricevere va anche bene, no? Non è un problema quello, certo. E allora avete considerato che ti devi far arrivare il cavo, a meno che tu non ce l'abbia già, fatti arrivare anche il commutatore antenna, stabilisci quante prese di uscita ti servono, 2, 3, 4, ce ne sono anche a 6 tranquillamente, scegli, così ti arriva tutto insieme, e così, e poi magari ti serviranno anche i PL, ovviamente, non c'è bisogno del mio consiglio per dirti queste cose, ma se per caso decidi di ordinarti il cavo da fuori, fai tutto un ordine e non se ne parla più. Mi fate gli euro loro per il 216 di no. Sì, io ne ho due di quel tipo che intendi tu, sono proprio dei bellissimi piedi, veramente. Quelli, il discorso della carta rimane proprio a contatto bello stretto, io credo che poi la ghiera si stringe addirittura con due chiavi per poter appunto fare un bel contatto perfetto e non mollarsi mai, va benissimo, sì, oltre alla saldatura chiaramente, il polo centrale va saldato, però allora la calza va un po' sbucciata al rovescio per un piccolissimo tratto, e poi tutto il resto del lavoro lo fa il piede stesso, perché nel modo come è fatto, quando avvicini stringe e ti pressa benissimo anche la calza, e il contatto è magistrale, veramente non è il solito cavo eccetera eccetera, cioè il solito piede, volevo dire. Questo sono cavi professionali, Non li conoscevo, e siccome che avevo nato nella roba di Andrati, lui mi ha detto, ma perché vuoi farlo? Fantastico, mi ha detto, io porta teorici, però guarda, adesso mi stavo guardando davanti, e poi mi ha fatto così, dopo che ho fatto il capo, bisogna fare un test, la cassa lì, guardi la cintura davanti, che va da tappo come rivo e beh, suppongo questo di sì, si fa un piccolo ciocche, si fa per appunto, serve come adattatore di impedenza, serve, dunque va bene, va benissimo, sì, già è bello farlo quello, perché evita magari un rientro di RF, come hai detto tu stesso, e per cui facendo ciò che lo blocca lì, viene bloccato proprio, so il diametro, non so se ti hanno dato anche l'indicazione per un diametro, ma intorno io penso a un tubo da 100, tipo fluviale, dai, puoi fare un ciocche attorno a quello e vedi, qualche spina, non è che devi fare 50 spine, sia ben chiaro, qualche spina così, e poi lo fissi con del coso, del nastro eccetera, e poi sfili il cavo, sfili il tubo e lo lasci così. Prendo l'unico, diciamo lungo il tubo, però fissato pure alle estremità sia della parte dell'antenna che della parte della radio, della parte di sotto, in modo che non faccia, che non vada a essere sventolato quando c'è molto vento. Per cui, no, già fai un bel lavoro, dai, già lo so. No, non va a vomire, in aria fa ordinario, poi come fai la giravolta, se ritieni di dire, se li salo, li mette il naso, che più o meno toccherà pianto tutto, questo acqua, e me l'aveva detto quello, il tecnico di Andrà, ha detto, se ti avanti qui sopra la pianta, prendi un tubo di arancione, visto gli arancioni, e gli fai due o tre giri e lo dici, che fanno per essere, e l'avevo fatto le reti 8000, l'avevo fatto. E caso strano, con il sensore prendevo un po' bene le frequenze basse, di cui sulle 80 me e più tentato. E mi dava meno di tutti, anche meno di tutti. Oh, che calcolo che era. A quando arriva giù a fare quei 20-30 metri è 30 segnali. Trattandosi di un RG58, già lo credo, è chiaro che perde, però si è adatta bene, praticamente è un adattatore, cioè questo ciocche qua non è altro che un adattatore di impedenza per eventuali disadattamenti con l'antenna, e serve per quello, serve, va benissimo, certo. Sì, te l'ho detto, un tubo da 100, quelli da fluviale, no? Quelli da scarico delle grondaie, da 100, fai quello e va benissimo, non c'è problema. Sì, lungo palo, è chiaro, è in aria così, ma non prendo l'uni che il vento te lo porta da una parte all'altra, lo fissi bene al tubo, lo fissi in modo che poi non faccia la bandiera quando c'è il vento, non c'è bisogno di dire queste cose, già le sai, e non solamente il naso, magari ci metti anche qualche linguetta di quelle affari di plastica che usano gli elettrauti per i fili delle macchine eccetera, no? Quelle fascette lì, ci metti un paio di quelle, così se si svolge il nastro, perché si sa col tempo il nastro potrebbe anche staccarsi, ci sono almeno le fascette che rimane sempre ben mantenuto il ciocche, ecco, tutto lì, quello intendevo qua. Thank you. chi ha fatto questa? Mi era passata ancora questo particolare, abbiamo non l'avevo fatto questo, ma i primi 20 sentiva un cosa quando c'era questo scritto tra l'altro e non si sentiva vera, figura, c'era tutti i comandanti, che cos'è, che cosa è, ho detto ma ho preso un coordinato, ho fatto tutto, no? Sì, beh certo, tu pensa che io fino a un po' di tempo fa avevo la mantova turbo e l'inverno quando c'era molto vento, per carità, i radiali suonavano, i radiali che era qualcosa di meraviglioso durante la notte alle 2-3 mattino, io siccome anche il sonno molto leggero sentivo questo fischiare, anche perché l'antenna ce l'avevo nel muro, tu immaginati la casa mia è a più livelli, no? E nel muro dove c'è il letto, quello della camera a letto, è corrispondente nella direzione in alto del tetto dove c'era piazzata questa antenna, sicché ti puoi immaginare, praticamente il muro stesso mi trasmetteva, anzi la risonanza, ma l'amplificava probabilmente anche il muro. E allora avevo deciso di togliere la mantova turbo e sto usando adesso la Game Master da tempo. Prima ce l'avevo autocostruita, da un paio di mesi a questa parte ce l'ho invece originale. E adesso però c'è un terrazzo, non nella parte alta della casa, assolutamente, infatti è più bassa di almeno 5-6 metri rispetto alla mantova turbo dove era prima. C'ho sempre la mantova turbo, però l'ho smontata, non ce l'ho più piazzata. E ho voluto fare quello accorgimento lì, perché se no la notte adesso d'inverno, mamma mia, sarebbe stato un problema con la, ma non tanto per me, ho pensato anche agli altri, ho detto magari c'è il confinante nella casa adiacente e volasse che risuoni anche da lui, ho pensato anche a quello per evitare qualsiasi complicazione, allora l'ho tolta e via. Io ho risolto tutti per caso, ho detto ma c'è un buco, è aperto, magari quello entra, fa, infatti io ho fatto un'altra dentro quello, se no ma è più corpo greno con la riga della pazienza, quello veramente fastidioso, no? E vabbè, poi non si dice che si taglia per qua, si dice che si va alla pena, guarda, non può fare, non era voglia togliere il di nuovo, o lasciare che mi sono abituato, non mi vedo, o non mi può fare, perché è la cosa che uno vede l'antenna a casa la vita, perché è la mano, perché a me che magari stanno di bene, ma sì, le antenne vecchie arrugginite, miscelatori arrugginite, cavi di discesa ossidate, prendono segnale, e per cui allora ogni cosettina entra lì. Poi tra l'altro prima c'erano anche le TV che avevano una media frequenza proprio scadentissima. Qualsiasi cosa entrava nelle medie frequenze, soprattutto quello, oltre al fatto che magari avevano anche l'antenna arrugginita oppure il cavo ossidato, o, insomma messo male, oppure addirittura con l'amplificatore d'antenna, perché allora in quel periodo si usava anche l'amplificatore d'antenna per la TV, perché il segnale era scadente, cioè era basso rispetto a quello che doveva essere, minimo 65 decibel e massimo 90 dB, perché se no va, se è troppo basso vedi il rischio, se è troppo alto vedi la sdoppiatura delle immagini. Dunque, perlomeno prima erano così i televisori di prima, oggi questi di oggi non lo so, ormai io sono fuori da tantissimi anni e non so se ci hanno migliorato, cosa hanno fatto, ma prima ci volevano 65 decibel per vedere la trasmissione senza il nevischio, perché già a 60 dB di segnale c'era già il nevischio. Dunque, per vedere in maniera discreta, 65 decibel dovevi avere, però non dovevi avere mai un massimo di 90, perché se avessi avuto più di 90, allora incominciavano lo sdoppiaggio delle immagini, a vedere due, tre, la stessa immagine due o tre volte, una sull'altra, era un macello, era. Oggi magari ci sono apparecchiature più perfezionate, i segnali dei ripetitori più forti, insomma, è tutto cambiato. Poi adesso in questo periodo, già da qualche anno abbiamo anche il digitale terrestre, per cui anche quello aiuta. Però nonostante tutto c'è sempre qualcuno che si può lamentare perché se ha l'impianto d'antenna, la TV messo male, è chiaro che potrebbe avere dei problemi. Purtroppo è così, vai a farglielo capire a certe persone. Vai Claudio. Diciamo che per la rete digitale si può fare quasi, ma con quella più di sopra la parte dove è scattato per ricevere che c'è un macchiaio qua, allora si chiama la parte che fa scattare per ricevere si attenuavano parecchio, però a qualche cosa gli apparteva, no? Qualche cosa. Ma parliamo poi con i dipoli, parlato bene, messo bene, guarda, la tua attività, e mio figlio andava al gatto in paragone, però l'aveva messo, all'attaccato, a palo da pochissimo, però per la non vado a fare. Io ho voluto provare e quindi questo è quello qua, tipo tanto la valutazione, tipo tracciato subito, lo vabbè, comunque ho tutti gli piatti, abbiamo abbastanza finito, ci sono più di fuoco, c'era in giro, caccia, no? Io non l'ho più visto, non l'ho visto in giro. No, adesso è tutta una diversa storia, adesso non abbiamo più quei problemi, perlomeno la maggior parte di noi, solo che ad esempio qui a Sassari, Sassari Vecchio, c'è un amico che purtroppo, magari anche all'ascolto, si deve limitare a quello perché ha problemi col vicinato, però ci sono sempre i motivi per cui lui ha problemi. Il problema qual è? Che quello all'antenna tutta messa male, pensa che si è rifiutato anche di fargli l'impianto d'antenna sulle prese e non gliel'hanno permesso, per dire no. Visto è considerato che lui ha l'antenna vicino anche a quella della TV, e niente da fare. Dice sì, io capisco che lei ha i suoi diritti, ma ce li ho anch'io i miei diritti. E dunque per questo mi offro di fargli l'antenna a mia spese, perché la sua antenna è messa male, è tutta quanta arrugginita, tutta quanta messa male, e cavi, eccetera. Le la faccio io l'antenna, a mie spese, nulla. Ma tu hai ragione con certe persone. A questo punto cosa succede? È successo che sono andati a controllarlo e purtroppo gli hanno sequestrato anche la radio, gli hanno sequestrato. E più gli hanno fatto una multa di 60 euro. E ci ha dovuto comprare poi un omologato, proprio quello mancato c'è, ma nonostante tutto, perché torniamo sempre a quello del discorso, l'antenna ricevente è tutta messa male e il YouTube c'è sempre. E lui adesso ha deciso di non parlare più, o perlomeno qualche volta, ma raramente entra, capisci? Per cui, proprio per l'ignoranza di certe persone, anche lui deve astenersi da quella passione che ha, ecco. Volendo si può obbligare un tizio a ripararsi la testa, sicuramente è già una cosa che è già successa, perché tu sai come lo sai tranquillo che sei qualcosa e loro sempre la causa non sei tu, o quello è già successo sia per te. Poi vabbè, oggi non si è che sta con le non vedo che si è nuovo, se non ho preso il canale, digitale preso. Io vabbè, anche non ho messo la parola, però sono un po' di non ho più avuto problemi con te. Però dobbiamo sempre stare sotto se ti capita che ti solleva un po', allora potrebbe anche disturbare per questo. Sì, diciamo che c'è meno probabilità, essendoci la parabola dell'interferenza, indubbiamente, anche perché sono segnaloni quelli, per cui, però il discorso è sempre quello. Quelli là hanno protestato e sono andati, l'hanno controllato e li hanno portato via la radio, li hanno portato via, proprio perché secondo loro non era omologato, eccetera eccetera. Lui dopo un po' di tempo si è comprato l'omologato, marcato c'è e dunque in perfetta regola, sia con la radio che con tutto il resto che occorre, ed è andato anche ad informarsi, ha detto così e così, mi stanno continuando ad assillare che io disturbo, dice. No, lei paga quanto vuole, non si devono aggiustare l'antenna. E quelli là però dicono, no, io l'antenna, no, fin quando non c'era lui, andava benissimo, andava. Ma il discorso non è che è finito lì, solo con questo contraddittorio. Il discorso è che lo minacciano, che lo picchiano, questo e quest'altro, tutte queste storie qua, lo sai. Allora, per il chiuso vivere, lui ha smesso e raramente si fa sentire. Tutto lì, opa. Io avrei fatto una bella cosa, non gliel'avrei data. Secondo, mi sarà, mi sono scoperto, ma ho visto, mi avrei prendo, mente, grazie, mi avrei fatto tutto tardo, questa cosa qui, forse c'è una cosa, questa cosa qui, prendo una cosa, sempre per il resto, però se lo sai attento alla ventola, non c'è la ventola, però la ventola sta aveva consigliato la ventola, era per via da 30 ampere, 40 ampere, sta con l'inizio, stava sempre dentro del 40 ampere. Sì, diciamo che il switching, il problema del switching è proprio quello, il fatto della ventola, anch'io ne ho uno a 30 ampere, sono così, non lo so se senti la ventola, ma suppongo di sì, io ho adottato un piccolo sistemino per abbassare la rumorosità della ventola, ci ho messo una resistenza, ci ho messo per abbassare la tensione nella ventola e dunque ho ridotto a metà il rumore della ventola, perché sicuramente magari si sente lo stesso, però non è così eccessivamente alto, e devo dire che raffredda ugualmente. E pensavo, detto, ma probabilmente l'alimentatore così ne soffre, e invece l'ho tenuto sott'occhio, sotto controllo, e ho visto che va bene ugualmente, non le fa niente, anche se la ventola gira più lentamente, perché prima originariamente era fortissima, girava forte, e dunque anche il rumore della ventola si sentiva abbastanza. Io infatti mi ti lascio per un attimino l'importante senza parlare, e tu dimmi se senti il rumore della ventola, se lo senti sentirai qualche cosettina da niente, si può dire, che poi tra l'altro la modulazione, la voce stessa la copre. Guarda, 2 secondi senza parlare. Vai. Sì, diciamo che siccome ho iniziato da ragazzino piccolino a lavorare, all'età di 10 anni, 10 anni e mezzo, tanto per darti un'idea, fino all'età di 20-22 anni ero elettricista e antennista anche, tra l'altro. E poi invece la ditta dove lavoravo ha fallito, c'era mio padre che anche lui era falegname, buon'anima, ed era capo operaio in una azienda, in una falegnameria. Mi ha detto: io vieni con me quando stai a trovare di nuovo lavoro. Sono andato con lui e ci sono rimasto, sono diventato falegname. E poi ho fatto 50 anni anche di artigiano, perché ti puoi immaginare, sono 2 anni e mezzo, una cosa del genere, quindi senza lavorare più per conto proprio, sino a poco tempo, nonostante che ho tutta l'attrezzatura ancora, però diciamo che il locale l'ho adibito a ufficio per mia figlia, l'ho trasformato praticamente, però all'interno ho tutta l'attrezzatura, macchine, eccetera, eccetera. Vai, Cla. Io ho il mio genere, mi lavorava con una malapata, però tutti i lavoretti che gli fanno lavora abbastanza, è triste la mia grande, che la sta posta, non lavorare, era per chiedere quando si è era, e con la mia colazione, che era posto cambiato, non si sa, e sono evasivo. Questo si sta giocando, è brutto anche avere che bravo un altro. Lo so, perché probabilmente quello lì è nobilitato e allora ecco che non regge molto dentro, magari nel triturale si piega. No, dovresti utilizzare delle mensole di faggio che le vendono, guarda, ci sono dei pannelli, cioè delle mensole già fatte in faggio, che sono praticamente col sistema lamellare, significa che sono tanti legni tutti incollati insieme, ma sono belli anche da vedere. Quelli non si piegano perché il faggio è un legno durissimo, per cui va bene così, o perlomeno se te lo fai fare da tuo genero, un bel ripiano come si deve, che utilizzi un legno consistente, che so io, ad esempio, va bene anche un legno che costa poco, come tipo locumè, però deve essere più spesso di 2 cm, fatelo fare almeno da legno da 4, lavorato che ti viene più o meno 30 mm, 30-32 più o meno, sicché va bene così, e no, non si piega, quello non si piega. Poi bisogna vedere anche quanto è lunga la campata, se è una campata di 2 metri è ovvio che incomincia ad arcuarsi, però a livello di 1 metro, 1,20 m va benissimo anche. Oppure vai dai Bricco, ci sono già pronti, ci sono di varie lunghezze e di larghezza anche, e tu ti prendi quello che più ti va meglio. Se è troppo largo te lo fai refilare, te lo fai fare a misura di larghezza, di lunghezza, magari anche, dipende. E quando in faggio stai tranquillo, costa un pochino di più, però quello non lo pieghi, non lo pieghi assolutamente, Claudio. Mi sembra che di faggio fanno più remi delle fasce, perché è privo di nodi. Io sono un altro figlio che lavora nell'ambito del fascio, è già diventato mezzo materiale. Mi aveva promesso che me lo faceva, che lo faccio io, che lo faccio io, che lavora tanto il mio figlio. Addirittura te lo faccio o in rovere che stanno dei pezzi, o in rocco, la roba lì. Solo che un giorno sei dimentica, un altro giorno ricordano, un altro giorno non sei dimenticato, ma non vado io in qualche Bricco e compro un pezzo di tavolo, faccio prima ancora. Faccio prima, anche perché a vedere questa cosa qua è tutto. Queste radio che appena per parecchio non vorrei che mai si spaccano e ne tende tutti i guai. Non c'è da stare tanto allegri, quelli se si piegano vuol dire che sono intrucciolare o al limite possono essere multistrati, o te lo fai fare il distellare, però il distellare dove lo trovi? Non lo so se lo vendono a pizzi, perché di solito sono fogli, fogli di paniere grandi. Ma io, secondo me, dovresti puntare sul cuore di faggio. Sai perché? Perché sono l'unico legno duro e consistente che trovi nel brico. Anche lì da voi, lì vicino, ce l'avete voi un brico lì a Porta Torres che vende queste cose. Per cui le trovi. Oppure ti fa una scappatina qui a quello che c'è in Viale Porta Torres, sulla 131, lì ci sono. E devo dire, no, non è che sono così costosi, vanno bene, però perlomeno prendi una tavola, te lo fai fare, prendi una tavola che su 10, ci sono tavole anche da 2,30 m, 2,50 m, lo tagli per metà, tavole di larghezza di circa 15 cm, tanto per fare un esempio, 15, 17, 18, dipende, lo tagli a metà, dal tuo figlio te lo fai tagliare a metà, più allato e poi li incolli insieme e diventa intorno ai 30 cm, anche di più di larghezza, e quello regge, altro che se regge, legno da 4 però lavorato che ti può venire, minimo deve venire 3 cm, se no anche 32-33 mm, poi se prendi una tavola che è bella dritta può essere anche 35 mm di spessore, e quello così non lo pieghi, non lo pieghi assolutamente, per cui io comunque prima ti dico di farti una passeggiatina lì a Ebrico e puoi vedere quello che trovi. Io ho visto che te lo tagliano, i livelli te lo tagliano, allora ti hanno compensato il formulario, almeno da 2,5 più o meno, se va bene, 5 da 3, così è un modo di metterne altre, vedere una cosa robusta, finita, poi che non conosce, faccia anche questo. Un altro problema è riuscire a avere più da 13 vicino per andare più qua a fare questo. Adesso io ho messo un po' di tabacco per il volante, con brutta verità. Non è che faccio una cosa, una testa lunga, con 13, 10, faccio il letto, la 6, la margine, che fanno le fare? Sì, beh certo, quando uno è in pensione, almeno il tempo lo passi facendo qualcosa di utile per te stesso, per cui è bene fare così. Sì, beh certo, per quello se compri le ciabatte o le compri quelle buone, ma io dico che sarebbe meglio autocostruirle, nel senso che sempre lì da Bricomen vendono delle scatole con la composizione che ci puoi mettere 6 prese, però sono 6 prese di quelli da impianto elettrico di casa proprio, perché le ciabatte alle volte, secondo che tipo di ciabatta è, col tempo poi si bruciano e non è che vanno molto bene, a meno che non compri ciabatte lì alla Elco, ma allora cominci a spendere 25-30 euro la ciabatta che non te lo fa fare nessuno. Invece ci sono delle scatole sono, io me la sono autocostruita, me ne ho fatto un paio di quelle, proprio per utilizzarle con delle prese come si deve, quelle prese che si usano negli impianti elettrici delle case, quelle non si bruciano. Io le ho inserite dentro perché sono prese da incasso, no? E ce ne stanno 6, ce ne stanno in ogni scatola, per cui fai il conto di quanto te ne occorrono, poi ce ne sono anche da 2, da 4, se te ne occorrono ad esempio 8, tanto per fare un esempio, 6 più 2 e ne hai 8, oppure tu prendi 6 più 4 e ci metti anche l'interruttore, in modo che poi tutte quelle prese schiacci l'interruttore e ti manca la corrente, ti manca a tutte le prese, e così è anche più sicuro, perché non si sa mai, con le prese così volanti è pericoloso. Guarda che mio nipote che abita lì nelle campagne vicino a Sorso, gli si è incendiata la casa proprio per le ciabatte, perché aveva la ciabatta attaccata, aveva attaccato il frigorifero, aveva attaccato, non c'erano, gli si è incendiata la casa e ha dovuto rifare tutto da capo, tutti i mobili, anche parte della casa ha dovuto aggiustare, ti puoi immaginare, sono molto pericolose le ciabatte. Sì, infatti è vero. E poi quelle prese che cosa metti? Non a bassa amperaggio, quelle più larghe, non quelle tedesche. Come le metti? Sono prese bipasso, puoi mettere sia la spina da 10 ampere che da 16 ampere. Io preferisco sempre quelle da 16 ampere, perché intanto perché puoi utilizzare sia la presa, la spina piccola che la spina grande, e poi essendo da 16 ampere hanno sempre una maggiore resistenza, si chiamano prese bipasso. E poi un interruttore a motore. Se in quello hai tolto sempre. Ecco. Se no si tira solo termine. Un attimo. Metti solo termine, lo dovete scattare via di qua, questo grattare, una roba del genere. Certo che si può mettere, come no? Altro che puoi mettere qualsiasi tipo di. Anche un interruttore differenziale puoi mettere, se per quello, in caso di cortocircuito salta subito quello e ciccia. C'è stato un break, avanti. Ciao Giulio, Marta, Luca. Mi puoi dare un controllo, come sta arrivando? 9 più 2 radio 5 è perfettissima, la bomba. 9 più 2? Sì, 9 più 2 di segnale, sì. Ho migliorato come da prima, sono ricordi. No, è uguale, 9 più 2 modulati anche, se non sia 9, a portante fissa nel piccolo intervallo che hai fatto mentre parlavi, 9 spaccato, quando moduli 9 più 2. Però c'ho stazionario a 2 più. Controllo allora, se a 2 più incomincia a essere un pochino rischioso, no, non fare in modo che arrivi a 3 perché se no si è fregato. Attento Luca, attento. Controlla bene e così almeno sei tranquillo. Non lo so se ti sente Claudio da Porto Torres, ma suppongo di sì. Claudio, l'hai sentito a Luca da Sassari? È un filo di radio, forse, con un segnale vero per filo di radio. Hai sentito Luca? No. Tu hai l'antenna che hai e sarà per quello, sarà per quello. Probabilmente per quello. Non so cosa dirti Luca. Metti a posto, dai. Anzi io ti dico solo una cosa, quando sei a casa di tua madre, dai, per essere più chiari, l'antenna che avevi prima, ce l'hai ancora, risistemala con l'antenna, perché prima tu a me mi arrivavi sempre intorno ai 9 più 15 mi arrivavi. Ora, quando mi arrivi forte, ma quando mi arrivi forte, veramente sono 9 più 5, niente di più. Ma questo da tantissimo tempo, Luca, ma so benissimo che l'antenna dovevi dargli una piccola manutenzione, dai. Va bene, Luca. Ma sono dalla mia 25, però non fa anche la mamma. Lo so adesso dove sei, lo so, ma il segnale è sempre quello mio, Luca, non ti credere che sia differente, con la differenza che da dove sei tu, dalla 25, per dire più vicino a me, ecco. Una controllatina, vediamo un po'. Anche ti dirò che quello stilo lì va più che bene per il segnale che mi stai arrivando, va più che bene. Per cui, però, io adesso stavo parlando anche della. Ho voluto continuare il piccolo discorso per l'antenna, perché tante volte ti ho sentito che quella di casa la devi sistemare. Fallo appena è possibile, così almeno ritorni come prima. Perché la radio è sempre bella, molto alta, eccetera. Adesso vai a Porto Torres e ti ha sentito con un filino di voce, mi stava dicendo Claudio di Porto Torres. Ok, provvedi. Avanti Claudio. Comunque se fa bisogno qua non ce l'ho quella bufala, che è il modello quella grande, sia 2,5 metri. E l'ho già a qualche grande. Ok. Sì, sentito, Luca, mi stava dicendo, siccome tu non lo senti, ti faccio da ponte. Ci sei Luca, sì? Luca, ci sei? No, non c'è più, se che è inutile che glielo dica. Sì, no, lui si è costruito con uno stilo di Grand Prix, con uno stilo di Mantova, anzi. si è messo sulla ringhiera della casa della fidanzata, penso che sia sulla ringhiera o sul tetto, non lo so esattamente, e dunque si è fatto la stazione lì. Però la sua stazione centrale dice a casa della madre, ma anche lì l'antenna ormai è alla Mantova lì, ma da tantissimi anni, che vuole ripristinata un pochino, perché anche con la casa della madre è di gran lunga inferiore a come ne arrivava prima. Tutto lì, va bene. Se sento qualcuno, già te lo faccio sapere, o Claudio, se qualcuno è interessato con la boomerang, perché no? Riprendi.